Libro dei numeri. Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo del secondo mese, nel secondo anno dalla loro uscita dalla terra d'Egitto, e disse: «Fate il censimento di tutta la comunità dei figli di Israele, per famiglie e case paterne, contando i nomi di tutti i maschi, secondo le loro teste, da 20 anni in su, chiunque può essere schierato nell'esercito in Israele. Li passerete in rassegna per schiere, tu e Aronne. Sarà con voi un uomo per tribù, un uomo che sia a capo della sua casa paterna. Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno. Per Ruben, Elisur, figlio di Sedeur. Per Simeone, Selumiel, figlio di Surisaddai. Per Giuda, Nacason, figlio di Amminadab. Per Issacar, Netanael, figlio di Suar. Per Zabulon, Eliab, figlio di Chelon. Per i figli di Giuseppe, per Efraim, Elisama, figlio di Ammiud. Per Manasse, Gamliel, figlio di Pedasur. Per Beniamino, Abidan, figlio di Gideoni. Per Dan, Achiezer, figlio di Amisaddai. Per Aser, Pagiel, figlio di Ocran. Per Gad, Eliasaf, figlio di Deuel. Per Neftali, Achira, figlio di Enan. Questi sono i chiamati della comunità, capi delle tribù dei loro padri, alla testa dei gruppi di Israele. Mosè ed Aronne presero quegli uomini che erano stati designati per nome. Radunarono tutta la comunità il primo del secondo mese e si registrarono per parentela in base alle loro famiglie, le loro case paterne, contando i nomi da 20 anni in su, secondo le loro teste. Come il Signore aveva ordinato a Mosè, li passarono in rassegna nel deserto del Sinai. I figli di Ruben, primogenito di Israele, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando tutti i maschi uno per uno da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Ruben furono 46.500. I figli di Simeone, i loro discendenti, recensiti per famiglie e case paterne, contando tutti i maschi uno per uno da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, recensiti della tribù di Simeone furono 59.300. I figli di Gad, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Gad furono 45.650. I figli di Giuda, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Giuda furono 74.600. I figli di Issacar, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Issacar furono 54.400. I figli di Zabulon, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Zabulon furono 57.400. I figli di Giuseppe, i figli di Efraim, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Efraim furono 40.500. I figli di Manasse, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Manasse furono 32.200. I figli di Beniamino, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Beniamino furono 35.400. I figli di Dan, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Dan furono 62.700. I figli di Aser, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Aser furono 41.500. I figli di Neftali, i loro discendenti per famiglie e case paterne, contando i nomi da 20 anni in su di chi poteva essere schierato nell'esercito, i recensiti della tribù di Neftali furono 53.400. Questi furono i recensiti da Mosè, con Aronne e i 12 capi di Israele, uno per ogni casa paterna. Tutti i figli di Israele, recensiti per casa paterna, da 20 anni in su, che potevano essere schierati nell'esercito, in totale furono 603.550. Ma tra loro non furono recensiti i Leviti, secondo la tribù dei loro padri. Il Signore aveva detto a Mosè: «Solo la tribù di Levi non passerai in rassegna e non li recensirai tra i figli di Israele. Ma disponi che i Leviti si prendano cura della dimora della testimonianza, di tutti i suoi arredi e di tutto quello che ha. Trasporteranno la dimora e tutti i suoi arredi, faranno il servizio e si accamperanno intorno alla dimora. Quando la dimora dovrà spostarsi, i Leviti la smonteranno, e quando la dimora si accamperà, i Leviti la erigeranno. Ogni estraneo che si avvicinerà sarà messo a morte. I figli di Israele si accamperanno ognuno nel proprio accampamento, ognuno presso la propria insegna, secondo le loro schiere. I Leviti si accamperanno intorno alla dimora della testimonianza, in modo che non ci sia indignazione contro la comunità dei figli di Israele. I Leviti custodiranno il servizio della dimora della testimonianza. I figli di Israele si conformarono a tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, e così fecero.